aggiunto cavaglietto, perché non ti attacca a tricchiare. Poi? Appena aggiunto cavaglietto, attacca a tricchiare. Ma guardate qua. Come sta bene? Va bene. Sì, ma non più che devo dare. No, con cosa no? Se non serve, passa a potenza questo malacchino. Se non vuole andare a potenza, esatto. Lascio popolare, io sono più pa' con l'età che mi sorrimi. Sì, ma cosa mio, se non parla che cambia, come attacco. Io voglia, vuoi dire che? Sì, ma però è strappente, vero? Fa come passato lungo a dire. Guarda che ti strappente, come, si va da bene, io sono lungo ce ne sono pochetti. Tanto si sta bene, no, non apprendersi. Ma qual è lui che ne siamo morrendo, è l'alimentatore? No, tu malattino, tu finito, non ti assicuro di prendere, no, ma sono i lui, poi la finata, proprio, vado a vinelle, e sto fatto subito. È basso potenza sicuro. Ma la fate la tribula, c'è. Per andare chi in bacca chi cosa, chi non andrà, la boh. Se è l'alimentatore, adesso? No, non so, non mi torno giù, dove c'è l'alimentatore? Beh, tanto, Kimbe... Se il baracchino Kimbe non la assorbito. No, ma questo problema lo pagate in macchina, voi. Chi ne passa a San Luca? Beh, in San Macchina pure, perché se va a San Luca si ne passa a Iana. Infatti, funziona sempre in L, in H non funziona. No, i nove da lui non si ne appasciano. E poi tanto difetto. Tanto difetto da dare, dai, in cosa. Che carnale si rumore, se è alta potenza ed è troppo, l'ingresso. Se non è alta potenza sul baracchino, se la luca del suo baracchino, se le occhi di qua. Che non bisogna fare, che è troppo l'entrata, non preso, troppo l'ingresso, Che fa, sempre lui ha funzionato il baracchino, che vanno l'altro. In macchina pure mi vai a problema e poi andrei alla troppia. Fate andare al minimo e se non sono gli occhi. A minimo, in L come so, in L. Già bella, iara sarà, Dio mio, bella. Bella, ma là sono fatti, che dico, altro là, sono baracchini che mi fatti, ho fatto, buh. Io adesso batto che mi fatti, però è bella sarà, Dio. 2,300 io. E me lo sapete che sono preficcata. Ehi, siamo alla spesa, ma la batteria di quella batteria già ricaricata. Va a godura la cuscia. Come sarà? Era piccolo positivo. Ma io venne a pizza, sennò che pure io che se chi va a lasciare quando lo fai attendere. Sì, come sarà il cane? Capo. Sarà se casuccio. Sono sicuro che sono in mare che questa corrente se. Sì, la pia si sta fuori. Ah, poverino qua. Ma poi mi sta a dormire un capo. Sì, io ho vissuto, che camera. Mi stava che la profetta della Mariangela la stavo nel mese, era chi sa macchina comprata molto bravo. E mi era nato che mi caia da. Che va a salire su 40. Sai che ho trovato un sattolo. Cazzo, un sattolo con l'elettricità, pure se ne va a Caronte, questo non me l'ha mai detto. Simonsi. Ecco. Un nome nuovo. Ecco. Ogni tanto ne avevano un nome nuovo. È sempre un matto insieme. Ecco. Fatto un pacone da bello, la voglio bene facciare. Ecco. Guardi break. Ciao Tony, Antoni Prode da questa parte. Sì, basso e non ho copiato bene il nominativo. Sono basso, Antonio Grotte, aspetta un attimino che evidentemente c'è qualche problema. Ma dove sei? Cazzo basso sei, mi alto, quanto vuole l'allenza, io? Senta, vago, che adesso? Ma basso di radio o di segnale? Il segnale 8, cazzo, era la radio, proprio troppo debole, cazzo. Ma fate un po' di accompagnamento, che fai la domanda di accompagnamento? Comunque sono in compagnia di Leone, dai, chiedi. Tappa di Roger, guarda un attimino, solito anche l'amico Leone, guarda se è salito il segnale. Adesso va bene. Leone, ben sentito, non so se riesci a copiarmi da questa parte, Antonio Grotte, ben sentito per la primiera, eh. Mi ha copiato. Lo so dire, Leo. Leo. Leo. Dimmela. Vedi che background, mi viene a intendere. Oh, Leo, non te lo rubano, anche tu lo sentite, io non posso farlo, fai vedere. Leone. Attenzione, Leone, se mi ascolti, attenzione. Tu dammi un segnale, Tonic, come Zagarriga. Sì, Santiago 9. Pronto, sì, guarda un pochettino, Guarda adesso. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, prova. Hola, hola. Ho aumentato la radio. Non so se Leone ti ascolta. Leo, l'intende come? Non ricordo, c'è un malacchino, boh, lui sta a dire, ma fa intendo, va? Ora mi ha mandato a te. Vai, Anto! Hola, 1, 2, 3, prova, guarda se sta andando meglio. Adesso ti ascolto, vai, la radio è bella, la chiara, Santiago di 7, mi sa, va. Hola, guarda un attimino se va meglio così, 1, 2, 3, prova. Santiago 7, la 7 non va, più di 7 non va, la radio è buona, va, 5 di là. Tony, mi devi fare da ponte, non riesco a tirarlo fuori io. Adesso ti ascolto meglio di poco fa, capito? Più bella la radio, più corposa. Tu dammi un controllo di segnale, guarda com'è. Adesso è 9.5. Hola. Sei sicuro che è 9.5? Guarda un po'. Hola. 5 e basta. Non ce la fai arrivare a 9.60 qua, no? Attenzione Leone, se mi copi. Hola Leone. Io ti copio adesso, dai, Santiago tra 7 e 8, dai. K, qua c'è QRM causa impianto fotovoltaico, non stai arrivando molto bene, sei sotto QRM. Comunque ben sentito, dai, vi lascio al vostro QSO e ci sentiamo alle prossime. Grazie Tony, ci vediamo presto, dai. No, c'ero bene me, dai. E il mio segnale com'è a quelle perre, a tu? FPR 6910 Radio 5. Un watt e mezzo, me. Con un watt e mezzo. Salò a Uru. Ma era gravato, me, Tony. Adesso ti faccio il passaggio a Canciatto. Guarda adesso questo passaggio com'è. Migliorato il radio, sei salito a 9.20 quasi. E sto andando con 120 watt. Anzi, con 100, a picchi positivi 120-140. Tony, ha già compreso, mana che è arrivato. Cagliari. Non ce l'hai fatta? No, 0.75. Sono 75, eravamo 10, 7 passati, 3 no. Hai sbagliato? Per 0.75 punti, meno di un punto non sono passato. Adesso quando ti presenti? Ottobre. Speriamo di farcela ancora. Aspetta, c'è una portante. Tu canta. Sei che canta, no? Non la puoi vedere. Io canta, si vuole cantare, là. Eia, vuoi rendere, non mi vuole riprendere, 7-8. Prego. Ma io vedo che più forte, io vedo 9-10. 9-10. Sì, va bene, dai, non c'è me. Intanto riesci, devi fare questa zona... zona astronauti. Va bene, prego, un attimo. E ci è tu. Rockefeller, guarda c'è un break. Non è break. Quanti sono break? Un attimo, Natalino Alfa 1 qua, sto provando un apparato, per cortesia, me lo date il controllo? A dirti la verità, non ti ascolto, non so se tu ascolti a me, però il passaggio che hai fatto è tutto quanto, nada de nada, negativus. Sei arrivato? più 5, Natali. Ciao. Ciao, Anto, dimmi che non ho sentito, ci siamo sovramodulati. Mi mando Santiago 8, è una radio di 4, cioè ti sento e non c'è problema. Sto usando un antennino di macchina, dai, vabbè. Vuol dire che quelli di Sassari almeno già li sento. Ma adesso, secondo il come ti muovi, sta salendo anche la radio, Sì, ok, va bene, non c'è problema, stavo controllando questa situazione qua. No problem. Che antenna è, che antenna è? Così trovo la salita. Ora ragazzi, per passaggio vi siete sovramodulati, aspetta Antonio un attimino, Natalino si trova comunque nella Sassari Vecchia, avanti Natalino. Una PLC 800. Riuscite a copiarti, sposta l'antenna. Se non la posso spostare la roba, è una PLC 800. Vai di Roger, una PLC 800, ma è tipo Minox. Ah no, quella che c'avevo poi in macchina. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. No, a seconda di come ti muovi tu evidentemente fai da riflettente, già stai uscendo bene. Lo so. Vabbè là. Comunque almeno Antonino lo sento, quelli di fuori li sento, prima non li sentivo, capito? Anche se loro non sentono a me, io sento a loro. È già migliorata di molto la situazione. Cappa di Roger. Tonino, non so se l'hai copiato, dai, te lo rilancio e io vado in QRX. Avanti Tonino, se riesci a copiare Natalino Alfa 1, che dice che ti riesce a copiarti, ma non so se tu riesci a copiare lui. Avanti. Natale, io non ti ascolto, non so se tu ascolti a me. Ti ascolto Tonino, io già ti ascolto, non c'è problema. Nulla, niente, niente, niente. EQRM non ne ho. La radio è abbastanza silenziosa. Non ti sento Natalino! Il K ha detto che lui già ti ascolta, o Tony, ti ascolta, però evidentemente non riesci a tirarlo fuori tu. E qua Remi non ne ho, il lago è tutto a zero, sei proprio silenzioso, no, senza nessun coso. Sì, perché sta trasmettendo con un'antenna di macchina, capito? Evidentemente quasi è dentro l'appartamento, siccome è nella sua serie di vecchia lui, evidentemente c'ha quel problema. Quel problema lì. Cappa di Roger, ma Leone cosa c'ha per caso? Una Mantova 1, perché ho visto una Mantova 1 lì a Ittiri. No, una Mantova 5 c'ha Leone. Dove l'hai vista a Ittiri questa Mantova? E perché antenne ce ne sono parecchie a Ittiri. E infatti, forse l'ho sbagliata e non è la sua. Comunque vicino alla piazza, è presente la piazza dove fanno la sagra? No, negativo, questo è alla periferia di Ittiri, all'ingresso di Ittiri, diciamo, però tutta alla destra, capito? A pari Rogero. Va bene, dai, vi lascio al vostro QSO, saluto Natalino e mi dispiace perché adesso non posso più farvi da ponte. Ci sentiamo alle prossime, saluto Leone, se mi ascolta, e a te, Tony, e ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, Anto, saluto i belli. Leo! Via! Ale, no, mu! Vedi qua. Aspetta, mi dopo lo dobbiamo faccio un bacio, da fare. Ecco, in QRT è andato. Ma è toccata, tu, non mi sei toccata, guarda il benedetto, mi manca. Come lo su me, da Santretto. Io sa che Santretto è silenzioso, silenzioso, curso, no... Senza non potere, no, non mi paga, è Natalino che non intendo, qua. Ma si intatta non arrivi da vita. Ma è macchina. È macchina, è cello. Io la giro una mano che culo a te. No, ma tu viene da che gli vedo una... 1800. Una PLC, io non so, una PLC 800. E per te non la Giulia, si è muciata. Natalino, ci sei? In macchina, perché c'è la mia di uno, perché... Perché fa il padre, non la pentisce. Nada de nada. Ma non ho fatto guarda, non lo che non ha prodotto. Un baracchino, se non ti preciso. Ah, ma io che sono andato su monte, mi lì che si bruciate con la monta, le ha tremato. Cazzo, non sono manco qua, come ti segnale, no? Sa più di noi, chi te credi? Ma capito, Da, sono a te che sei. Dove sono arrivato 7, E che pinto da dove venne 7? A letti questo è? No, questo è a letti al pinto. Cazzo, ma è vero che ne con... quando lo fate a me, sono pure qui. E dove mi sono scende? Sono andato in ridelle. inglese, non si chiede che grande di uno. Ma latino è boh, non so, c'è la salsiccia. Neanche io, qua l'ha detto che lo controlliamo se vogliamo sapere il ciappata. Ma te la metta che usavo perché devo mettere su sul microfono, è uscito fu. Ah, questo è che, non me la metto. Cosa questo è? Evidentemente mi deve fare casi vicia brugliata. E intanto che deve segare. Niente, vinci la Ferrari. Ferrari che ne va a seconda, la Sabino va la bottiglia però. Cazzo di cavolo, prima sempre primo eh. Beh, ma vuoi appiccherò, eh. Invece ha cambiato la gomma, ha fatto l'inizio della vita, questa gomma si chiede posso andare più presso da là. E la bottiglia però. E la tua gara la gara la bottiglia loro. Mi sicura, arrivo ne come a mezz'ora, cazzo. Tu puoi tre ore, eh. Cazzo, la canno che penso i dari. Per paese. Come, mi come, questa sa molto. Sa molto bisogno. Ah. Insomma, chiude batteria fricca. Poi vedete si mi sa prova di guardare l'uviato che stiamo a lavoro, no? Il buccio solo fa che se lo dico. Non ha pensato in televisione che badate l'uviato, pensate per di un'ora, più di un'ora prima se l'ho data, a provare. Il capo dell'uviato, devo fare la gara, e poi ci come ora, ti è bella, sono le mele. Chi è che vuole entrare, avanti? Chi è che vuole entrare? Non da botta, riprende. Io ho pensato a fare. No, uno paio bacio bacio. Non dico che devi pensare, avanti. No, serve perché non può. No, non credo pensare, non a bozza. Altro di questo di. Allora non più fa. Rubi più, eh. Fatto su un bando non più secco. Io me ne sono più secco, il bando non più fatto su me. Vogliono il vuoco, co. Sempre più ti ha fatto. Ti ha l'appenteso. Sta più di due. Non aiuta, co. Ma con uno sta le cose. Fanno gli occhi appresso. E quattro gli occhi. Non sente di vicchia. Ti ha truccato lo canso drai. E vedesco. Bobo. Ah, è una chino, nome. Ehi, che fa? Ah, perché mi danno la freccia, il resto. Ah, ehi, nome. Questo è un po'. Smith è la terza metà, ma lo Smith, sono lei della terza metà, e solo Smith che ti regala. Non posso vedere che ti chiede a... a chi? Ehi, non lo so, non è te che sei, se. Ti sono lei, ma quando fai da te, sono Smith che ti regala a chi? No, su me io quando faccio, sono piccolo, sono passato dai zero, però la parte nel movimento, guarda, fai paga dai zero per la metà otto. Ora, ora, c'è Kimbe, dipende, mica come fa la uno, o uno, dove c'è Kimbe, dipende. No, quando faccio, che sono modulente, a base da terrore rozzo, a portante multa è zero. Modulato sono 20, che dicala. Ma se smette fa il clicco, segnale, dai 1 a fare il clicco, poi becca, modulazione. E poi esatto, se si applica la giunta, poi non dico, ma che cosa, si cala la giunta. Ma questo non io che tu assorbi io. Io questo segnale, e mi segna da un canto di 400. Cala la giunta. Muy bien, muy bien, e no che hai scritto? Uno. E che cosa è questo qui? Ma hai scritto. Ah, c'è modulazione. Non va arrivo al 100%. Poi tutto ha mai scritto dev. Uno. Tu sai neanche adesso. Beh, non dico se ne io però se metto forse incorporato. Non dico, ma lo smitto con tre scritti a biglia, se non ha questo segnale che vale 1, 3, 5, 7, 9, 9, 3. Poi se ho messo questa modulazione. A Sabino è 100% da riprendere tutto là. Poi il messaggio è rimasto da 0, 1, 1,5, 3, poi questo un luglio e il dev. Cosa ci devo dare? Giuro il metro. E tanto quando ha portato molto a 0, e va il dev a 1. E tanto gli andrà bene, senza male non mi dà. Non è bello a te, ma hai controllato la cosa che non ti ho fatto. No, vero, hai andato un po' via. strada è sempre... Cioè, se non hanno bene a nulla, infatti è tutto panda, cioè non fanno tutto nebbia. Infatti, io credo che il bivica, campo su filo, questo, se ti sacca la luce rossa, la salta il tubo, e quindi esce su vielle e il tira. Se fanno bisogno che nella quale se la controlla, se... No, tu qui dove di gallo, se praticato un cerotto, come qui di cerottato, l'hai fatto un rotto e l'hai cerottato sul tubo, e se ti fai qua? Si ha fascetto a ricordo, poco uscio. Sì, non ha fatto l'altro qua, che mi ha cercato la comoda, ma la cosa. Non ha più le comode, guarda che friccata era. Sì, è trovato. Ma più fricco, si mantiene più bene la temperatura. Ah, dopo si vuole sapere si cala per un bruglia. Certo. Adesso ci ti lascia, amico, sono carcerato. A te dici, fare la carriera del campanone, le rapperanno di alluminio, ha fatto bisciotta, che? Non prende, sì. Tu vai a toccare, poi io non ci vengo a e poi. Quando dai, a me capita ne sono 40. Io sì, ero fritto, guarda. Sì, sì, io cazzo, devi abitare... Per alleato con questa pinza, cazzo. Perché questa, tra l'altro, con l'ore, è un malato, il capo la sono morti a furia. Praticamente non potete sbagliare, né io né il sì, va. Ma non fare, ma come non fare più nulla, eh? Sì, sono unica e mica. Sono unica, non fa che nulla. Cazzo, poi da cantare le bada, a primo di dia, cosa proprio che sono da fronte, no, da facevo di un monte, cazzo, deve essere senno di questo paese. Signori, ah, non si senno, perché sono voluto lì. Ma adesso voi sapete che si sono fera, che si dà bene dai già appuntare. Dai già appuntare, sono fera. E che male, adesso è sotto. Cazzo, io sono vedendo, i dia, quando mi sa di leggiare, sa, io sono fera, i dia una idia. Chi fa la iata? L'ho preso. Come un ricordo, so sono il senno. So sono le cattinate. E se non c'è che un bacio. Ah, ne so so. Ma il saputo si dà più bene ancora. Prendendo verso tanta. A sinistra, mi dà lui da bere, lui ha rugliato. E poi ho una dia provocato, a Paidende, cazzo sa, e a saputo a lui dia dai nove. Dio già la sa, come va da così ragazzo, Far da nuovo con già ragazzo. Allora più è. Infatti questo video curucato, questo baratto che si di nuovo qui su. In cosa? Sulla teduca, qui non sulla teduca noi, molte lettere. Allora. Un baratto bianco che pare di una semiluna. Insomma, è molto lettere. E noi via. Via. E via Milano? E via Milano si sì, dai 9, no, sta là. Via Milano è la sigla, ma poi la disimmagino lì. Ah, tutto quanto sta apparito. Come si vede, tanto la zona di via Milano è entrata e noi abbiamo il rifornitore dei lascimi. E che si dava? Via Roccaffè. Cosa zona l'hai dato? Però come fare una in bascio? Non vedo nulla che poteva essere da tanta fare foschia. Hanno più. E che dico, lei? E che dico, ma? Cazzo, io sono una Milano, cazzo, ho trovato bello Iaro, ma? Ho l'antenna, sì, è pure del Salviero. Sì, e poi niente. Appunto, se si dava, con quel che mi zappa. Su questo in zappa? Zappa, lo conosco, questo che mi sono sempre in berlina. E l'hai fa? Sì. E lo sai io? Il tanto l'ha pulito, vuol dire. Come lo faccio, guarda? Io sono berlita, io prendo il tiro, devo solo vedere l'erro, guarda. Cazzo, il tanto è caseghetto, ma cosa c'è tanto la poesia? Neanche domani, sa cazzo, Maria, e su, come lo faccio? Devo dire che cazzo mi metto sul cuore. E si imberrita e in cerchietta velluta, porta rossa. Certo, no, evidentemente hai affritto. Ma che cazzo che porto lì per la vostra berrita? Certo. Sempre la Juve. Bello, sempre, di notte, questi sono metti sulla coca. E te l'ara, ma sempre a casa stessa cosa. Ma che otto per l'otto? E vieni in bitrisa. Vieni in bitrisa. E in bitrisa abbiamo trovato metà frutta. E come te vai? Lui no, mi fa in bitrisa di questa roba di... Ma che dice? Sopra, poi viene sopra. Grazie, Lucco. Allora, adesso tornate a dare cosa? Dove mi sale? Ah? Mi sa che mi risale. No, ho fatto lei su questo, sì. Non credo, no. Sì, in carità, per la maglia di tanto, lei su, viaggia dalla dinastia, a tanto. Io mi sa che mi sa tornare a dare cosa? Mi sa che mi sa tornare a dare di soldarsi. 30 anni, più di 30 anni fa che mi tendi a lasciare, poi non ora mi sarà pensato dopo me. Cosa devo vedere un numero di berretta in tazza, però non dico se sì, sono io via sai, vai via. E si mette la fotografia a capo. Ehi, chiamalo giù, non chiamalo, se sa quello che ti aiuta. E questo cazzo, perché non sei vogliato in cosa berretta? Sì, sì. La berretta, io sono quell'ultimo. Cazzo cose che tu hai, però, signora mia, quando guardo. Dico sono russo qui, voi ci vuoi finire la cosa con petto, mi va. Arreghino, però passare aria. Io si chiama coppia aerea. Cazzo, cazzo. E tanto, non è che non le soffre le cazzo. Ma che siamo noi che abbiamo qua, lui siamo là. Come se uno fica risposto, dopo che fa caldo. Beh, però stanno per fare cazzo. Se non sento, si tappano per il sole, perché se no non lo cogliere. Sì, ma lo suero, ma che se no lo... Ha preso il mucchio del bianco. E non suero, non è che la suero, non ha scelto che lì, nada. Sì, ha preso il suero, deve fare. Ma il suero, non ha scelto cazzo, non sai nato, questo. Bambino, quindi questo suero è... Sì, appena movimento che fai, sono subito in fuga. Ma, guardate, come so che ho fatto abbiamo segato, non ho detto, ma tu sei qua. Ma, siamo tu sei qua, dobbiamo andare a buttare, vedi tu. Tutto crescendo da rinno, questo è lo leare, dove lo paga la terriolo, se lo paga un montone, e anche lì cosa, non paga la salita. E te ne prego, così come prego. Ma dai, sono dunque, tanto più unito, questo. Prego, su che barrasciate? No, su che barrasciate deve entrarci a fare caldo, che ce l'hai entrato su sale, sopra. Questo problema è che se mi chiederai chi su... Sono stronco che non ha secato, se l'è stronco non hai secato, va, sono arrivato a sicco, cazzo, come tutto prionito, eh. Senza piantato, però, prego. Quanto sei una pasta, non sono piantato, sono passato da una pasta, tutto prionito, su. Tanto che l'ho fatto siccare, però come potevo andare la mossa gara che volete appendere la china, che vuole essere trovato dentro. Già da cadere per cadere un vago sale. Mettato, cazzo, se l'era in culo. Insomma, quello ricco tutto. Fatta piccolino, c'è un montone salita. Fatto sono entrato la moto seca, c'è un culo di questa la china, e la piena andata fatta e... Se la vedete, ho fatto un battuto. Cazzo, c'è una data? E con questo si chiede. Dai su tronco, alle critte vaghe. Lei sa salippa, e mi lavora sopra, mi lavora, cazzo. Sì, quello l'ha portato con il comandato, da rimanere a sega, poi l'ha fatto solitario, era una motosega. E l'ha un piano andato a fattare sotto gli altri tronco. Lei era posto sul sale, in una vita l'ha fatto. E come vivo, dopo la devo parlare sale, con l'ha fatta. E se no, che madone non si può fumare, quello che ho piatto la terapia, lei, con la pure fruttuario. E che cazzo la paga di questo cazzo del tronchetto, cazzo, che non dà né frutti né nulla, cazzo. Cazzo, non te la romete, mi lascio, ma faccio male, una... più di 20 pintavo, cazzo, broccato, come, cazzo. Questo tronco, pieno, pieno, tutto quanto, più unito, cazzo. E io non ho cazzo, se no, mi ha dato un malo trucco, non me l'avrei così dove per fare, su piccolo... Adesso non ho un trucco che mi ha sentito. No, no, non abbiamo fatto lasciare, deve essere lungo, no, 3 metri, so, 3 metri su, non abbiamo fatto lasciare, non te lo paga tutto quanto a carriolo, so, poi quando vuoi arrivare a sappo, e poi solo a rietro rosale. Ma poi un'altra è così molto male. Ma questo rosale non mi pugna, guarda lì come te l'ha fatto su tronco, guarda, c'hai il pugno là, va, il susso. ma come è si chiuso l'ho pigliato? No, io l'avevo piantato, l'ho pigliato, sono soltanto frasico, cioè sono soltanto frasicato, cazzo, quindi mi paia da avvocato, ma che batta sciogliersi. Se uso bianco, so, cazzo, rosso, canto una vita. Il rosso è una vita, E come ti sono di salvo su Marracocco, l'anno? No, quando lo stessi che avevo salvo su Marracocco, se non è che l'avevo passato su, le uso solo che maturo. Cazzo ne canto il sol, cazzo, non mi sa messo chilo su, cazzo. Adesso la pugna mi sono scolato, cazzo, ma rosso, rosso, rosso, rosso, canto una manica mazzetta. Ah, ho fatto mangiare, avanti, la punta, la moto sega. Russo ha detto l'antico, poi da parola come lo chiuso in bocca, poi la vecchia, sei cambiato tutto. E c'è la tua, cazzate la terapia. Ah, ma sto sempre sotto l'antico in passata, io a fare cosa più caro, di fatti sto parlando di montare, l'altra carta con la pulita. Ma io non impasta così molto male, cazzo. Quando l'ho segato con la serra, me l'ho posegata come non sarà a bucare bru, cazzo, andando via, su sale. Tu vai giunto a Dezzale, in tutto il tribino, in tutto il canto, in una chiesa nata, cancarato. Sì, no, vedevo. Io no. Dico che rimuovo il cavolo, rimuovo il cavolo, mi devo preservare io. No, ma se rimuovo il suo sale, dove lo pratica subito? Che lui parla per avanza a fondo, che gli parla, compreso, vanno. Solo che come devo distruggere questo trucco, tocca te lo fare, era piccoletto, tocca te lo fare. Poi era montato, l'olietto l'ha fatta, l'olietto a basalita. No, e noi sì, come non lo possiamo fare sotto, da che abbiamo stato fatto, da l'olettina era il suo, che la legna sul cassoletto, ha avviato un samotto, ho detto voi. Ma quando chiede siamo un pezzo, hai cercato i sumi del rumore, cazzo? Non lì che perché lo vuole, ma loro già la testa non sa pianta, sai sempre la testa, adesso. Noi siamo in Samaccia, noi siamo in Pusto, mi trovo più arrivo lì. Che va di oggi? Io non mi sento via, siamo un pezzo, fatto a piccolo per prendere un sacco, guarda. Fatto a piccolo, sì. Non perché non è bene, allora non la farà fare, comunque. Cazzo, però non farà con Pichera. Lo tuo è la tua lettina. Solo quando mi dico direttamente alla Pusto del Pusto. Se sono lo fatto piccolo che lo vuole in campagna adesso, era in culo. Se non c'è un paradoro di denuncia la lui. E poi ti mi denuncia, cazzo, è produente, cazzo, verde. Ma non si vuole, se vuole stare sempre giri. Abito su piedi tra un barattello, ecco. Lui, un barattello a Iuri, lo piede. Dai già. A Iuri, lo piede, abito. Che cazzo, ti puoi fare, non è da risorro, no? Magari con l'incendio, co. E te dico, qui c'è un barattello di Iuri, cazzo, si abito. Noi non lavoriamo sempre, anche sempre, la ricchi. E questo è sempre in giro, non c'è parlato di volere che cosa, di fare il barba. A proposito del paranzello, può fare ancora a messe il lavoressale Giovanni Pirina, oltre la Raia? Sì. Mi chiedi brigadiere carabinieri prima di Genova, Vittireso. Mamma mia, siamo in Calibita. Sì. Vittireso questo, però vedi saporassare, vedi, niente di più fuori saporassare. Vedi, brigadiere a Genova, se ne piacete vedi saporassare. Io vado in Pirina, mi pare, mi vado l'avvocato. Vittireso, prendeva uno con l'uomo, come l'ho trovato l'uomo con l'uomo. Giovanni, se vado l'avvocato. Non saprei più. Non te lo faccio di, sono la madre che non lo vedo. Comunque una volta che l'ha puito, vedi, saporassare. Dai i carabinieri che mi sono riuscito una cronaca forestale, grande, non mi sono un amico. Via, come ci ho pensato? Mi piace la cosa perché lavoro in vita, che non devo dire. E chi è? Ma come lo trovi? Ah no. Se mi piace vuoi lavorare in vita, adesso ho fatto la dopo, con Giovanni, il buco. Ci faccio venire con me questo? Sì, ti si sa. Luigi. E te con Giovanni. Eh? Te con Giovanni. Ala. E poi si va. No, da me l'ha preguntato uno, dei questo che è un uocco, adesso te grava, sa, a pezzi nostri. Un uocco se non te capra, capra. No, non ti ricordare. Ah, che uocco non si riesce a te grava, sa. E del cocco mi voglio sopra, va. Capra, sa. Se non mi lascio il nome, cazzo. Che però un po' non ti ricordo. Mi ti dici, questo è un altro giudizio, però un attimo, non so se è cogliuto in vita, di te, la moglie di Budino, la moglie di Budino. Non ti ricordare, te Cabras, Cabras. Non ti ricordare. Non te lo so dire, non dico il suo nome. Era un culo, non l'ha messo. Come lo so dire, però la scusa è grave, non sono grave. Non te lo so dire, non te lo so dire, non mi viene in mente. Questa moto non l'avrò bisogno. Non me lo essere, fatela come fai ieri. Qui io ho finito gli altri. Niente. Allora come sai era? Non lo dico, no, avevo pure San Motto minore, ma non è San Matto, non che so, non è quello che prima San Matto. Oh, quando cominciamo mi sono sempre chiamato 20 gimbe, sono resti in manta e poi c'ho... sono già che mi canto. E tanto, no, ma non vedi, perché è uno, ragazzi, mi sentano come sta. Ecco, ho pubblicitato. Ecco, mi devo fare pubblicità, che poi c'è quello, vedo di cosa. È una silhouette. E sono assillo. Poi non so come la metto pagato voi. E ho televisione Kai, no. E sono tra rette, sì. Però in quello no. È troppo pieno da pagamento, come, guarda, non conviene. Come te no? Che sarà? È preso un po' di lavoro, già funziona, chissà. E funziona. E sarà, se ci passa come te lo fanno al privato, è tutto, guarda. Di tanto, da che minuto, se... la trasmissione, del filmato, cazzo, è un'ora di pubblicità. Ma siccome te sarà che fai una buona vita? È come te regola, sono dato, sono ufficiale per fare, ragazzi, quindi sul primo tempo, se no durante un altro programma. Ma sono le valute pubblicitarie, se la compra la cosa, la compra la compra. E infatti, se la prima cosa vuole tirare poi, se compri, va, che non li passa mai. E quando è così? A noi sì, su che si è attaccata la pubblica. Si stanno in dubbio, la sapuva si becca più cazzo, e diventano un casino. Si taglia pensando come te l'applica, cazzo. Sì, è solo che l'applica, cazzo, che bello. Cazzo, manica la vetta, cazzo. Sì, se non manica la vetta, cazzo, che casuppa. E non paghi di donne. Ma cosa, non si lamenta. E tanto, vedi, cazzo, si ha chi li guarda, la bruciacca su un minuto. E non si chi li guarda su tasto, non credo io, no. E come fai cosa viene lui pur? Non li vanno a parlare sì, poi siamo resti, che ne va? Cioè, insomma, chi qui piace la nudo, cazzo, sennò che da parte di sì, se no ti arresta. E io non devo andare a fare un peggio, è dubbio. Sto tenendo la conchetta, piena di sabbia. Che gli imparava, ragazzi. Cazzo, guarda, non si chiede poco, cazzo, perché è in terra, cazzo. Che cazzo ti ringione, cazzo? Che cosa cammina di Forroviene? Di Forroviene mi caratterico. Che più sanno? Cazzo, tanto la prima cosa con Cavora. E io non so se la buccia prima la salvata di loro. Io vedo momento nasce, te ne ho subito capigliato. Se la prima cosa tutti questa buccia, vuoi fare sempre con Cavora. Se non lo vuoi neanche leggere su segno e brifti, c'è un calcio di cerruia e lo do su un ieggio. Posso la prosare l'altro? Sta su un'altra di questa maniera, ragazzi, se hai cappellata e ti è pronto a intanare. Ma come mai lui? Ma dura pinnata, cazzo. Una di me ha raccontato una cosa, piglia persone. Quando vedi una rabbia, fanno un gigante un ieggio. E stanno a cagare, non se ne c'è, quella ti chirrio, cazzo. E io che sotto a pelle. Cazzo, io sotto a pelle, quella se ne c'è, cazzo. E il tenere, quella qui si ne dice, una torre di frigione, una chiamaria in terra. E poi la tira. Ma per tenere, quella se ne c'è, cazzo. Ma io, una cosa che la puoi fare, una torre di frigione in terra, no? Ah, no. Cazzo, il tenere, mi rapide su piccarri con me. Sì, ma il tesoro la presura. Tutto cosa loro, questo. E tutto cosa loro. Cazzo, ed è poco da trasare, pure. Che fa, non posso non pensare, pure. Cazzo, di aria, 40 centimetri di corsa, ragazzi. Non ti ho sempre accorto, questo. Cazzo, di aria, una trasa che hanno filmato, cazzo, con cazzo, ma da proposito, io come te ne fanno. Cazzo, fa vedere su conto, quanto è lunga, da proposito, io che sono mincia lunga. Cazzo, di tante cose, ragazzi. Cazzo, era su bilancino. Non lo metti via. Cazzo, vedi come la fattura, già. Ma poi mi finite, non vale l'annuncio, ma io non lo so, lo so tras. Mi ricordo, 27 per 16. sì, ce n'è. A vedere se c'è. E qui da là che fa la cannucchia, ecco. Allora, che ti guida? Cazzo di euro, veramente, cazzo, qua che da quant'anno quello forse su genere, ragazzi. Allora, ma questo va che non ci viva visto, è fuori di uso bravo, questo cosa è bravo? Hai su lei, fate tutto, ce ne girai la culo. Ma là, se si passa anche lui a malire, un attimo, la sta lì. Cazzo, 6 centimetri di circonferenza, dai. E io? Niente, se una canna fumaria, dai. E 27 Longaria. Cazzo Longaria? 27. No, rabbona, cazzo. Che genere. Cazzo, mi sono mandato a Braga, mi sai io, cazzo. Ah, sì, Maria, l'ho attesinato, la punta della radio. Cazzo, me lo monterà, io, mi. Anche, io come portante. Cazzo, che genere. Ma cos'hai, non me l'hai attirato? Ma cos'ho vinto, me l'hai provato? Quindi, manco filo d'aria ho vinto. La che bella la cannetta, ragazzi, cazzo, 20 centimetri di cosa, ragazzo, mi chiede quanto ha in culo. Ah, sono anche un tiro a bere. Vabbè, a bere non sono mezzo, come voleva che pensare più bene. Voleva che posso venire in più. Che se ne vuole così? Se ne vuole, tu sei chi gli dica di più. Posso così? Vabbè. Certo, ma sono cazzo di samucca, ragazzi. Ma tu a cosa? Questa cazzo ne fa la roba cazzo pulitata, cazzo. Io ero naro, io che l'aiuto è matura, che io... quando l'aiuto è finto andrà bene, cazzo. Che manna pure finti, mica. Però qui, manna bene, mi lo vede, cazzo, non si buscia a fare quella mezza. Ah, niente, sono una troia, cazzo. Non lunga che tocchi, non grossa che duri in atto, ma piccola che duri, cazzo. Pensavo che questa bagaglia, cazzo, non so cominciare a sentire, cazzo, che la dico tu fuori, ragazzi. Ehi, ma io sapevo la ragione, ma te devi fare, basta niente, deve pegare, basta me la vedere, ragazzi. Io metto su che deve fare, pure. Cazzo, perché sei cascionato, cazzo, no, cazzo. Va a fare qua mamma doia, ragazzi. Ah, ma, io vabbè, ma non voglio più questo che ho detto, ma non. Ehi. Cazzo, cosa l'hai detto di lui? L'hai in culo pure. Cazzo, che l'ha di culo pure. E l'ha che l'ha di culo pure. Perché mi l'ha bila coccata, cazzo. Ma pari in due, coccato, cazzo. Ma non sono preso. Come, usa, già. Questo cosa ti viene a tutto. Non interessa a nulla. Andrà a fare ma qui mi la salta la vera. Oh, io. Dalle palle. Cazzo. Non ti sì. Non ti difendono. Hanno visto non c'è più noi mancare, cazzo, mi hanno fatto una slovena qua, cazzo, ma tanto è buona, cazzo, buona che zino, cazzo, buona, buona, gigante ditta, cazzo. A San Vito o a Allora, ci sono giampato la puntata di ficca. Ah? Ah, in giosso, prima di arrivare con su venne materiale io, dimmi. Io guarda quello che sto girando, ma prima del tappeto prima di fare quello. No, ma se vai tappa riandendo verso bancare, compreso qua. Prima vai, puntata di figa e poi acciapposa a Tressa, a Valente, acciapposa questo. Questo circolo, cazzo, ma io vedo tronco e canna. E se la si interno, compreso, quando il cancello umano è elettrico qua. Ma così non è perché questa sul casuolo. Ma parrivi sai tu, non parrivi a bancare proprio, non parrivi, compreso qua. Ehi, a fuoco, guarda, prima sono qua, no? R, primo, beh, questo circolo poi, come ti giampa, a sinistra, c'è poco il materiale edile. E ora io non posso esistere. Regizia, regizia, come non mi dà mente regizia, perché la passa è, cazzo, boh. Comunque, se ci stava con la bancale, ci stava la rampa su, non è con il nuovo, si stava, boh. Sì, se stava chiaro da mancare, dal Tattari, si presta un materiale lì, la fiamma su materiale per esercizio, la fiamma su materiale lì. Oh, questo è primo di arrivare su materiale lì, da qua. Sì, sono lì, l'esercizio è stato a casa materiale lì, e poi, quello che prima di arrivare a Versalarici, io stavo a parlare, e questo dico, ma non muovi le urli, ma. No, parli, da fuori, dai, questa zona, no. Fa che sono tanti di figlia, voi avete fatto appena le pari, sì. Chissà, come c'è a San Fanata, e te fa che se uno che manda metro, so, se questo cancello umano, a tre, sa intra, sarebbe sul circolo. Come fa tutto le pari? Allora se la metto una vaglia di chita, se non mi sento, non manco pure, cazzo, non fate un trucco, è grande, cazzo. Fino a pagare zette, cazzo. Ha subito. Cazzo, ma è bella rotta male il sicuro, cazzo. Mi sono un bitripaglia adesso qua, cazzo, è l'ordinario, non ritirata, non preso, cazzo. E di cui io vado, sono fisico, cazzo. E io sono rotta male mela, io non ho un'annata, perché io non c'è, perché non lavori al bar. Non ci lavoro, neanche tanto soldi non me ne danno, cosa ci faccio ora, cosa vado a lavorare. E come vuole tu? Chi se ne che cazzo questo, non è che si per guardare, cazzo. Ah, probabilmente c'è questo padre su qua. In affitto là, vai, era un privato con questo barista, eh. Chissà. Chissà, questo barista, vado sul circolo. Cazzo, ma... E come ti ho pagato un tipo, cazzo? Quando fa casa che manta... Che manta tu, che manta Trajano? Cazzo, quando fa... Cazzo, io che mi piace la cortare, no? Cazzo, che una prossima vado una seminata, vai, e che ti piace la cortare. Su Friacra, su Friacra, che alleato, quando fa che porta figura. Poi e poi non mi ha piaciuto nulla. E se noto che mi ha retto, no, che tutta la notte, no, che però non mi ha fatto nulla. Pensato, non stavo parlando da tutto, con le cose giù che la mano. Cazzo, se mai sei buona, cazzo, in perizoma, cazzo. Io sono abito in minigonna, la pizza che da passare, ma racchino che non è canna, cazzo. Qui è buona, cazzo, buona, ben fatta, cazzo. Due con due pizzichi, due pezzi, cazzo, delicato, delicato. Ciao, cazzo. Quando è che è una parasera, quando mi sono andato, cazzo, mi sono fuso, cazzo. C'è dia che lo io che ho visto pesata, cazzo. Una per una, una per l'altra, non è giuria. Io mi sono. Cazzo, ne canta e cecce, cazzo. Isso, cazzo. Cazzo, cazzo, a colare sulle buche. Di nare in nada da nada. Ah no, dai, dai, dai, sono visto. Ehi, poi a rifugo però. Sì, da lì, vedi, da là, da qua. Cazzo, sto bene, eh. Slovena, è nato, Slovena, un altro nome, un altro, Ovo Sovana, buh. Sì, Slovena, lo so. Cazzo, Slovena, c'è la idea, cazzo, sei, cazzo, buona, cazzo, buona, una, una. È roba che la raccolta della Finai, Jimmy. Sì, è no. Hai se lo lasciala. Mettiti di non volere. Hai se lo lasciala. Sì, che mi hai dato, non è che l'hai dato il non è che l'hai nato di nono. Ehi, questo è un vicino di... Ehi, piano piano. Piano piano, l'MLM, fino a mezza... Poi hai fatto sapere la raissa. Ehi, sono dovete, per cui vi comando, per sapere. Ehi, c'è piano, che è la calura. Ah, è calura, dai. Ma se ne è dopo qualche cosa, no? Poi sono i venne. Ma se no che andate a morre, cazzo. No, ma che bella figlia. Ma cosa dà la papà la bella accanto a Corrado Re, cazzo, come la paia a bere? Ma io vedo la figlia del pacchettone a bere. Ma io c'è la paia accanto a Corrado Re, mi sentite i nove, mi sono sauna. Sì, ma non ti pensi che sia Caivella, no? No, ma la sono tu qui. Ma non sa grado se sentite i nove. Se vada, una, due, tre, quattro, chimbe, sei fila di euro lasciata, sei anno a pesta, cazzo, poi intanto te sali a fricca, però cazzo, cazzo, cazzo. Ieri, dopo il centenario, così qua, a pesta, e un sacco di lavoro che si lascia. Vorrà peinare, sennò cazzo, per la vostra, l'ho ricomprato, già è stato, so. Cazzo. Allora le ho salta, ma allora non ho salta neanche io. Bella riavrisa, cazzo. Tonica, che casinava. sbaglio, si prolunga. Quando non so che fa questo, ma lo so. Andate in mirate i fattimari, cazzo. Ve lo contano, eh. Muovi, muovi. Cazzo. Ma non andato bene, devi giocare una, due, fino a te, un'altra. Se devi alleare, devi un metro, ok? Sì, bisogna ricostruire un abbraccio, loro. Bisogna attivare del tutto qui. Che la mamma, ma lei è il nostro guardiano, così non ha vinto. Allora, è piazzato, cazzo. Sì, ma tu hai piazzato la teoria, è girato già, cazzo. E dopo, ha facciato due filari di una, cazzo. E hanno messo, cazzo, è andato in frigo. Non vedo, no. Sì, lo lasciavano una passata, se non attivo. Non ho già niente di questo, non ho niente di questo, non ho niente di questo. Cazzo, ma i cazzetti mi sono qui. E la sauna, cazzo, non vanno bene a fare il suo bagno caldo. Sì, ma che io attivo, mi trovo una parte, io non so se l'uso di controllo. Sì, no, va bene adesso fare un prosciutto a me. Ehi, andiamo in casa. Cazzo. Deve andare in dono, ragazzo, non cotto, cazzo. Sì, dobbiamo usare la picchetta, siamo lenti, eh. Prendiamo il cucchietto e passiamo a te con. Cazzo, io non l'ho pensato, ma... A me lo pongo, è duro. E ora una rapina che è loro sasso, insomma capire quanti di rossato. Sì, la fanno la luce quella che. E l'abbiamo pensato. No, di due, io. Quello che mi fa questa luce e poi. E se io vabbè, non so che fai tu. Mi ha fatto quello che hanno fatto il muratura, no? L'hanno potuto un bacco una terra. Ah, ma io come devo so prefabbricato che lo rezzessura, sa misura che lo rezzessura è bollita, cazzo. Sì, da sta legato, ma se fanno non messo a porra, no? Io l'ho fatto il caldo e poi hanno potuto un bacone, di più. E già, questo sì. Però noi abbiamo bisogno di questo so in coso. Lo bollita, cazzo, e da sta porra. Io non lo sapevo più. Lo avevo. Non è una cosa più attiva, tu vai a sentire di una cazzo che non è nessuno, cazzo. Poi c'era solo il sole, cazzo, c'era. E già il terzo sarà un carino. Ehi, cazzo, capito, su baccone, cazzo, su manco di rassaglia, cazzo. E se no ti potrà essere una pista, che te l'ha già fatta. No, no, no, ma già, non via. Tutto mortigato, insomma. Sì, insomma. Che fa faccio? Forse uno qua non è qui ancora. Ah, io non so se sono stato sicuro che fanno lì. Forse una cosa dolore che sono andato a un buglione. Io penso che non si può fare su burretto, cazzo. Ma mancato. Su burretto usa la siglietta, insomma, se vedi chi non mi avvicina. Ma se non mi fa che mai usa per altri, no? Non mi avevo procurato. Ma una cosa con su burretto, cazzo. Ma a me non mi pagano mai l'utile, dopo come lo fanno, perché come sono per fare. Io che sono pezzo, dove quella notte che mi devo fare sentire, dove è la conca, attacca poi dove non ti ero, non andato più, non ero pesato, non sapevo che cazzo mi ricavetto un aereo, attaccato sul muro. L'ha appiccizzata, cazzo, e l'ha programmato, mi sono uscito sul rame. Era qua non fare. Cazzo, quanto sotto la lampo, io la chiudo. Quindi che più vuoi, non si può andare a andare a mattare sotto la sede. Siamo a noi. Siamo a noi, se ti fanno mettere, no, come si cambia male, se lo a fare che si può fare. A fare da loro. Siamo loro. Poi voi come ti chiede sotto il clou? Che può darsi? Ho cambiato mano, che non me la voglio, si chiede sotto la mattata qui. Mentre c'è una mano, io, se no... Non è che la stringa il truppo, due. No, come perché il cazzo di bagaglio l'ho coccato, questo braccio viaggiato, voi scatto un metro. Yes, no, io sono andato in poltrona, però, hai già denaro, ma, che bella, ma, mi sono tutti, mi chiamano a Giosso, ma, troppo caldo, cazzo. Io non ho la mia vita di fare. Cosa non è a Giosso? Sì, a bassa pasciura. Ma io non ci facciamo un fricco, ma non ho ancora la. Stavo dicendo che non si abbassava. No, che fricco è? E poi ogni tanto la gente sarebbe fricca, però è un cazzo, è un cazzo, cazzo, sì. Ma quando parlo la sigla, cazzo, La sirenetta è da sé. No. Allora, chi trova la sirenetta bene? E magari primavera, magari sai a bene, cazzo. Sì, io credo che la gioco sono buona qui. Cazzo. Non ci vuole vedere la domenica a sicurare le prime, le apone il primo, cazzo. Sono arrivato anche più della terrazza. E non ho stesso quel caso, guarda, non sono messo. No, ti ha detto mio. Il pisciato mezzo ce lo danno qui, di come, vabbè, più rimbascio. Sì. Gira, ci ha trovato il sì. Sicurità. Quello è lui che sta lavorando la santa raggioso, anzi che lo raggioso. Cazzo, come picchierete 11, 22 orso e 11, 22 orso, 33 metri di capo, picchiere come che parla raggioso. A prolunga di quello lì. Cazzo, la vera aula è, se ne fa come capo, cazzo, se parla raggioso, oi, ha lasciato tutti i nomi, non le ha in culo, cazzo. Sì, va a campo. Io devo tenermi questo mese, su mese quinta e poi passa. Non devo fare tu, ma vediamo su mese quinta anche il conto. Sì, vabbè. Non è peccato, non è la piove, cazzo. E il frico si salta, il frico si salta. Sì, poi si era proprio tu, ma la saltare sul titolo, aiuto. Ma, ah, a sinistra, non ce la fai qui. Sa che la pace qui. E te, cazzo, devi partire, non è 6 anni e vedi fino a me. Ah, bella vita. Sì, sta bene, sono più bello di mai della cosa radio, a soffrire. Due settimane l'hanno di dire il blu. Sì, con settimane buone, c'è la cosa ricca, c'è la bene blu. E se no, vado, ti direi che la batte l'acqua. E questo è con la moglie. Davvero, mica, una piscina, via, una iappa, cazzo, è smulata, è una cosa che stiamo durando, Alghero. Allora, c'è una cosa da avviare. Cazzo, via, beh, hai di denaro, io sono il mio lavoro andaggioso, cazzo, troppo caldo, cazzo. Via, è già mi chiedo solo bene. Cazzo, via, bubù. No, cazzo, mi sono pagato, mi sa che mi sono manzano, cazzo. Aspetta, se non vado qui, no. Cazzo. Io sa che mi, a stasera mese abbiamo arrivato con cosa, con Pinocchietto Moro, dove è buttato ciò. Certo, Moro? Con Pinocchietto Moro. Che la pancora è la mia destinazione, poi viene imparato, serrato e dimmi che dovrà andare a giosso. No, non ho fatto di tutto mangiare, non mi ricordo tanto. No, c'è chi mi è venuto a mangiare, cazzo, c'è un ricco bello, cazzo, c'è un enemy. Mi ha fatto vedere questo, sono la rotta, lui no. Cazzo, le notte, quella tua notte in seduta, cazzo. No, mi ha rinvocato, se mi chiama Sarzumbi. Sarzumbi che mi ha rinvocato. Ragazzi, gira dietro, gira gira, a potrò un mese, poi io ti indurro, ragazzi, mi rilascio con la tua casa, poi io sono qui. Ma vabbè, come mi deve essere? Oh, dice tutto. E che si è visto, si è visto. Sì, guarda, con la famiglia non stanno più in bagno, sarà loro, eh. Sì, la diarrea. Non vuole avere, dammi, non so mai vedere, più un caffè là. E io vado a chi mi vuole dire, boh, qui tanto in bagno, sono proprio là, ma poi stai a vedere tranquillo. Ieri notte, non dico che sia un po' di grasso del giorno, grazie perché io ho, quindi sta a due, la cosa è passata di campare, tra le mani, con la regalia, con le qui, sta di tutta, sta andando le mani, perché le mani non hanno, hai un blu. A mezzodì è una comanda che è macarone, non sai che non è che, ho fatto mia babbo come una chipuggia. Uno cucumbo che fa capo matta, cazzo faccio, vediamo dei blavo a mano, di salata, cazzo. La proposta porti che cazzo. Perché la paccherà, la bella la passata, un altro piatto. Ma devo vi fare il lietto porti che cazzo. Ma non mi so via. Cazzo di ero, ma carrone, ma che fai non è che sono cazzo, un troppo cazzo, dai. A misura, a cosa in giù, ragazzo. Molto, dai, basta di casa, a trovare non mette salata, mi è buco. E la vogliamo, sono, esatto. E c'è cazzo di qua. Cazzo, ma la manicare roba cai, cazzo pure. Ah, ti è tolo che mi vedo a manicare pure roba cai, pittura. Ma se ne conto con chi pucca, cazzo, che la popolo, cazzo, che vuole fumata, se ne conto con come era maturo, cazzo. Non so se la mattina si la ricordate la manicare, ma fatto lo verde. È roba miglia, ma sarebbe la sacola più grande. Cazzo. Però è per rascio, mi cazzo. Vedo dei giù, ma non vuol dire, stessa dove sono, perché non stanno mica consultando, stanno nella cultura diretta, stanno andando con la transita, andando con cambiamento con quello di carregare. Cazzo, bene, mi vedo per quella che in tu pinti, o che tu finti. E io lo pinto. Cazzo, cosa sarei a cadere troppo razzo, voglio pesare il suo 70 kg, 80 kg, da. Per Lucava. è infantesimo, bighere, no? E poi a questo, invece ho fatto un commento, ho avuto un pochino, io. Cazzo, me da? Ma che si buttiamo la chiesa, allora ti lascio, cazzo, mi devo dare l'alimento. Una roba piccante, dai, al ragionamento. No, vai, io e ti piace solo tutto il tuo. E io sono una che è una, che è capitata, che è una, una, che se tu ti trovi sulla roba, ti piccante. Ma guarda, lasciate non fare voi. Certo. Ma la ricchi sono usati, guarda. Sì. Ah no. Chi non ci attende uno bussattero, gli arrivi tanto. Lui. E tu ci accetta che si... che è vero? Mamma mia, ha messo una cosa, sono mazzone per subito, ma non picchio mai. Secondo me fa tutto il subito, c'è già voi, c'è voi. Certo. E c'è un'altra. Tu non vuoi venire senza la chiesa? Sono andato per la fame. Sì, ci devono verificare a fine, ragazzi. Signor Gnao, io sono Serrenne.